Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. In ascolto, questa è Restiamo Animali, uno spazio dedicato alle istanze, alle iniziative, alle idee del movimento animalista, antispecista e vegan. Andiamo in onda settimanalmente dal 2012 con l'obiettivo di dare considerazione e attenzione agli animali non umani, commentando fatti di cronaca e di cultura dal loro punto di vista e nel loro interesse. Siamo arrivati alla puntata numero 561, nella quale parleremo di vegetali ingannatori, corride mancate, cammelli liberi e il pacco chiamato PAC. Speriamo di avervi incuriositi. Cominciamo subito a parlare di PAC, del pacco chiamato PAC, come abbiamo detto nell'introduzione. Prendiamo la prima notizia da www.cambialaterra.it del 21 ottobre 2020. Si è concluso in modo disastroso il voto europeo sulla PAC, cioè sulla politica agricola europea, che si è svolto il giorno 23 ottobre scorso a Bruxelles. L'accordo trovato tra le maggiori forze politiche appoggia linee guida in palese contrasto con gli obiettivi delle strategie europee Farm to Fork e Biodiversità 2030, che puntavano alla riduzione di pesticidi, fertilizzanti e antibiotici in agricoltura e a raggiungere il 25% dei terreni agricoli in agricoltura biologica entro il 2030. Una resa incondizionata alle grandi lobby dell'agricoltura industriale, come denunciano a gran voce i principali rappresentanti della società civile e delle ONG ambientaliste, da Greenpeace a Slow Food, da Greta Thunberg a IFOAM, la Federazione Europea dei Movimenti per l'Agricoltura Biologica. Tra le altre cose sono state respinte le proposte della Commissione Ambiente del Parlamento Europeo di tagliare i sussidi per il sistema degli allevamenti intensivi e di aumentare sostanzialmente i finanziamenti per le misure ambientali. Attualmente oltre il 35% del budget totale dell'Unione Europea, pari a circa 60 miliardi di euro, quindi una cifra esorbitante versata tra l'altro dai contribuenti dell'Unione Europea, vengono spesi ogni anno per i sussidi alla PAC, quindi oltre il 35% del budget totale dell'Unione Europea. La riforma della PAC sembra subire soprattutto le pressioni dalla potente lobby dell'agrobusiness COPA-COGECA, accanto alla quale si sono schierati l'industria dei pesticidi e i grandi big di quella alimentare. Lo ha denunciato una settimana fa la ONG Corporate Europe Observatory. Il tentativo di questi colossi è quello di evitare che la PAC si allinei agli obiettivi del Green Deal. Il loro obiettivo è palesemente quello di indebolire la portata della strategia Farm to Fork e la transizione ecosostenibile tanto voluta da Ursula von der Leyen. Così facendo però, dal 1980 l'Unione Europea ha perso il 57% dei suoi uccelli, degli ambienti agricoli, così come farfalle, api e altri impollinatori, anch'essi in grave declino. Ma dal basso, i cittadini europei con la campagna Good Food, Good Farming stanno chiedendo ai politici di non ascoltare solo le sirene dell'agroindustria. La coalizione hashtag Cambiamo Agricoltura, che rappresenta 70 associazioni ambientaliste e dell'agricoltura biologica, denuncia come ecotruffa il risultato delle votazioni, ma soprattutto l'intento di alcuni gruppi politici e dei ministri dell'agricoltura di far passare agli occhi della stampa e dell'opinione pubblica questo voto come una svolta green della PAC, quando nei fatti non lo è assolutamente. Anche l'attivista svedese per il clima Greta Thunberg ha lamentato la mancanza di attenzione riservata alla riforma della PAC, che secondo lei ignora completamente il clima e la biodiversità. Passiamo alla seconda notizia, parliamo ancora di politica agricola europea, ma stavolta si parla di alimentazione vegana. La prendiamo da www.ilsole24ore.com del 23 ottobre. Tra i vari emendamenti inseriti nel voto sulla politica agricola comune c'erano anche quelli relativi all'hamburger vegetale. Dopo il divieto del 2017 di utilizzare termini come latte d'avena, anche espressioni come veggie burger e salsicce vegane hanno rischiato di scomparire dalle etichette dei sostituti vegetali. E il 23 ottobre gli europarlamentari sono stati chiamati a decidere se introdurre o meno l'emendamento 165 per vietare termini come bistecca, salsiccia o burger quando ci si riferisce ai sostituti vegetali della carne. E l'emendamento 171 che avrebbe vietato qualsiasi riferimento all'industria lattiero-casearia, come ad esempio i termini cremoso o sostituto vegetale del latte, in quanto accusati di ingannare il consumatore. Proprio così, la Coldiretti ha annunciato che la finta carne ingannerebbe 9 italiani su 10, tant'è che su Facebook il commento che andava per la maggiore era il seguente: certo che se 9 onnivori su 10 non capiscono l'hamburger vegetale, evidentemente non siamo noi vegani ad avere carenze. Il presunto inganno non regge, sia perché i supermercati dedicano aree apposite a questo tipo di prodotti, sia perché quello che cercano in modo crescente i consumatori sono proprio alimenti sostitutivi alla carne, come mostrano i numeri in continua crescita. Oggi il mercato dei sostituti della carne a livello globale vale 4,6 miliardi di dollari e si stima che entro 4 anni arriverà a oltre 6 miliardi di dollari, con il 39% del giro d'affari concentrato in Europa. Lo scontro in campo è sempre quello tra gli allevatori, il cui mercato è in crisi e che reputano inaccettabile qualsiasi interferenza nella denominazione riservata alla carne, e le aziende, che su questo business si giocano parte dei propri fatturati. Ma l'Europarlamento ha salvato l'hamburger vegetale. Nessuno degli emendamenti che intendevano limitare l'uso delle denominazioni di carne ai soli prodotti di origine animale è stato infatti approvato. Resta quindi la possibilità di utilizzare termini come mortadella, salsiccia o hamburger per prodotti con ingredienti integralmente vegetali. Da parte nostra, condividiamo molto chi fa notare che non è il caso di cantare vittoria, perché l'industria della carne non è stata battuta. Allevamenti e mattatoi continuano a funzionare e a essere l'inferno in terra per milioni di animali. È su questo che dobbiamo concentrare sforzi e attenzione. Tosco Vegan Chef Gabriele Palloni di dedicare la ricetta della settimana alla querelle dei surrogati vegetali della carne. Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà. Ciclicamente assistiamo alla diatriba sulla denominazione di alcune alternative vegetali alla carne, ed i burger sono stati più volte protagonisti. In questo momento così difficile per tutti, è possibile che si perda tempo addirittura a livello europeo a discutere la possibilità di avere un'alternativa che non danneggia nessuno e aiuta l'ambiente? Oggi ancora di più da Fiorentino Doc mi scatta la polemica e l'accento diventa vernacolo. Così il piatto di questa settimana l'ho battezzato i Polemica Burger. Gli ingredienti per 4 persone sono 200 g di lenticchie verdi essiccate, 300 g di cavolo nero privato dalle coste, 50 g di pangrattato, una cipolla, 200 g di polpa di zucca, uno spicchio di aglio, 2 cucchiai di olio extravergine, del timo, sale e pepe. Sciacquate le lenticchie e lasciatele in ammollo in abbondante acqua almeno per 2 ore, meglio se tutta la notte. Lavate le foglie di cavolo nero e fatele scottare in acqua leggermente salata fino a quando saranno morbide. Scolate e lasciate intiepidire, quindi strizzatele per far uscire più liquido possibile. A parte sbucciate la cipolla e affettatela. Scolate le lenticchie e macinatele con un mixer o un frullatore ad immersione a crudo, assieme al cavolo nero, il timo e la cipolla. Versate il tutto in una boule e aggiungete il pangrattato e un cucchiaio di olio extravergine. Aggiustate di sale e pepe e fate riposare 15 minuti. Nel frattempo tagliate la polpa di zucca a cubetti e fatela rosolare in padella con lo spicchio di aglio tritato e un cucchiaio di olio extravergine. Aggiustate di sale e pepe e portate a cottura. Quando la zucca sarà morbida, togliete dal fuoco ed omogeneizzate il tutto con un frullatore ad immersione, aggiungendo un goccio di brodo o latte vegetale se necessario. Recuperate l'impasto di lenticchie e cavolo nero e con le mani inumidite formate dei burger che sistemerete in una padella con un filo di olio ben caldo. Fate cuocere a fiamma bassa 10 minuti per ogni lato col coperchio. A questo punto i vostri burger sono pronti. Disponete un cucchiaio abbondante di crema alla zucca sui piatti e adagiatevi i burger. Servite con delle foglie di timo fresco e un filo di olio extravergine. È appena uscito l'ultimo libro di Gabriele Palloni. Il titolo è Se vuoi essere sano, cucina vegano. Oltre 300 ricette della tradizione, stagionali, vegane, con 64 foto a colori a piena pagina, a soli 5,90 €. In vendita su newtoncompton.com. Un regalo di Natale imprescindibile. Buona notizia che ha a che fare con la politica agricola europea. La prendiamo da www.greenme.it del 23 ottobre. Con 335 voti a favore e 297 contrari, l'Unione ha approvato un emendamento che vieta di sovvenzionare il bestiame la cui destinazione finale è la vendita per le attività di tauromachia direttamente o tramite intermediari. Un passo avanti in ambito europeo sul doloroso e triste tema delle corride. La votazione chiarisce che il Parlamento europeo non sostiene la tauromachia e non vuole finanziare alcuna attività di allevamento che sia direttamente o indirettamente collegata alle corride. Come sappiamo, finora la PAC è stata uno dei modi in cui il denaro dell'Unione europea ha sostenuto il business della corrida. Tutto succede mentre a Madrid, nel luglio scorso, il presidente della provincia di Madrid, Isabel Díaz Ayuso, assieme con il sindaco della capitale, José Luis Martínez Almeida, hanno firmato un protocollo con lo slogan «La corrida è una dimostrazione di libertà», in base al quale entrambe le amministrazioni si impegnano a difendere la corrida con azioni diverse, puntando a farla diventare patrimonio culturale. Va detto che la corrida è il secondo spettacolo con il più grande afflusso di pubblico dopo il calcio in Spagna e che ha un impatto economico annuale di 414 milioni di euro nella regione, nonostante gli spettatori nelle arene siano in continuo calo. Dal 2007 al 2019, pensate, il calo è stato del 63,4%. E con il Covid questo trend è destinato a intensificarsi. Sul piano della tutela degli animali, nell'emendamento approvato si legge che le pratiche che comportano la morte del toro non sarebbero finanziate perché supporrebbero una palese violazione dell'accordo europeo per la protezione degli animali negli allevamenti. Ovviamente ci stupisce questa affermazione. In fondo non solo i tori vengono uccisi alla fine della fiera. Tutti gli animali che vengono allevati finiscono al mattatoio. In ogni caso, anche questa notizia, che sembra buona, è buona solo a metà, perché il Parlamento deve ancora negoziare con il Consiglio europeo e la Commissione europea il testo finale della PAC. Già 5 anni fa il Parlamento aveva votato contro i sussidi per l'acquisto o vendita di animali destinati alle corride, ma il testo finale della PAC aveva poi respinto l'emendamento. Speriamo che questa volta le cose vadano diversamente. Chiudiamo con due buone notizie, una viene dall'Egitto e una da Cuba. In Egitto è stato vietato il trasporto dei turisti con cammelli, cavalli ed asini. Si useranno auto e autobus elettrici. Il divieto, che dovrebbe entrare in vigore già nelle prossime settimane, non riguarderebbe solo l'area delle piramidi di Giza, ma tutti i principali siti archeologici egiziani. La notizia è stata data dalla PETA Asia, organizzazione internazionale non profit a sostegno degli animali, che si è molto spesa con le sue video investigazioni per documentare le condizioni di abuso subite dagli animali impiegati nelle aree archeologiche egiziane. Molti dei cammelli utilizzati per il turismo in Egitto provengono dal famigerato mercato dei cammelli di Birkash, dove PETA Asia ha filmato i cammelli picchiati a sangue e dove 3 commercianti di cammelli, grazie alle sue denunce, ora rischiano una pesante multa e la reclusione fino a 6 mesi ai sensi dell'articolo 357 del Codice Penale. Questo annuncio è un'enorme vittoria per tutti i cammelli e i cavalli che sono costretti a trasportare visitatori sulla schiena o in carrozza nei principali siti turistici dell'Egitto, nel caldo torrido, senza accesso a cibo, acqua o ombra. Ha detto così Jason Baker, vicepresidente senior delle campagne internazionali di PETA Asia. Le nostre telecamere hanno documentato gli animali che scivolavano, che cadevano a terra, e gli addetti che li frustavano senza pietà per farli rialzare. Quasi 500.000 persone compassionevoli hanno inviato messaggi al Ministero del Turismo implorando la fine di questi soprusi. Same. Ma buona notizia arriva da Cuba. La prendiamo da www.lastampa.it nella sua rubrica animalista che si chiama La Zampa del 25 ottobre. A La Habana un cambiamento epocale. Il Consiglio di Stato e il Parlamento di Cuba voteranno un decreto legge per la tutela di tutti gli animali. Un provvedimento emblematico dei cambiamenti socioculturali in atto sull'isola dal 2018, con il vaglio della nuova Costituzione e l'accesso alla rete di telefonia mobile 3G. Il decreto legge per il benessere animale verrà approvato a novembre dal Consiglio di Stato e poi ratificato dall'Assemblea Nazionale. Le strade di Cuba, come purtroppo sa bene chi ci è andato in vacanza, sono piene di cani randagi affamati, di gatti in pessime condizioni di salute, oltre al perdurare dei sacrifici rituali di animali e dei combattimenti di galli. Tutte pratiche denunciate da animalisti e attivisti della società civile che hanno fatto sentire la loro voce durante manifestazioni storiche nell'aprile 2019 con centinaia di cittadini scesi in strada per chiedere una apposita legge. Più che puntare alle sanzioni, l'obiettivo è quello di educare la popolazione per operare un cambiamento di mentalità nei rapporti con gli animali e nei trattamenti a loro riservati. Considerato che l'entrata media mensile di un cubano è di $40 e che spesso mancano beni alimentari per buona parte della popolazione, anche per via dell'embargo degli Stati Uniti, dare da mangiare a un animale è ancora considerato un lusso. Una situazione però che è in rapido cambiamento, infatti si sta affermando una classe media ed è quella che sta operando il progressivo cambiamento di mentalità, non solo per il benessere degli animali, ma anche per i diritti delle persone omosessuali e contro le violenze di genere. Quando si parla di liberazione, non si può che fare un discorso di intersezionalità tra le lotte. I want to spend the night with you forever. Every time we wind up spending the night. Siamo in chiusura, vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima puntata la nostra redazione al completo, composta da Roberta Marino, Francesca De Matteis, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco e da Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia. L'appuntamento con la puntata numero 562 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.